Buon pomeriggio a tutti e a tutte, giovedì 18 marzo del 2010, le 14 in punto, il consueto appuntamento settimanale con il cinema, questo è Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15 su Radio Onda Rossa, 87.900 la modulazione di frequenza dal 1977, senza padrini politici, senza padroni economici. Oh, per saperne di più sulla trasmissione potete andare sul sito della radio www.ondarossa.info alla voce Visionari, dove c'è la scaletta, date su Leggi e lì troverete il link per riascoltare la puntata precedente, per vedere gli ospiti di questa settimana, le uscite di domani, venerdì 19 marzo in sala e poi i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e nel Lazio e poi link per interviste, conferenze stampa e recensioni e altre indicazioni per quanto riguarda invece i film in TV per quanto riguarda la settimana televisiva. Andiamo subito a contattare i nostri ospiti di quest'oggi. Marcello Sannino, regista del documentario Corde, ben trovato. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Allora, con te per parlare del tuo documentario che sarà programmato all'interno della rassegna Italia Doc, la Casa del Cinema, mercoledì prossimo, mercoledì 24 marzo alle 16. Allora, raccontaci un po'. Sì. Ti racconto del film? Beh sì, cominciamo da quello. Beh, il film diciamo, è il risultato di un lavoro abbastanza lungo, sì. Prima nella concezione, nel senso l'idea mi venne addirittura nel 2000, perché insomma all'epoca avevo una piccola libreria di cinema a Piazza Banchi Nuovi a Napoli, nel centro storico, e lì era forte il rapporto proprio con i ragazzini, i giovani che in questa piazza erano lì insomma senza far niente, e questa presenza della libreria di cinema per i ragazzini era così insomma un luogo sconosciuto, e insomma per cui io riflettevo con un altro negoziante vicino del insomma di loro, dicevo in realtà loro che a noi non hanno niente da fare, e lui mi parlò invece della realtà chiaramente sportiva e pugilistica in quel caso, che dava perlomeno un senso e un modo di occupare la giornata. Per cui pensai subito che effettivamente, essendo ancora presente, io pensavo fosse quasi scomparsa la realtà pugilista, invece era ancora viva. Il fascino della box era presente in me da tempo e chiaramente capivo come potesse essere il luogo di contraddizioni e quindi un luogo interessante dove poter trovare una storia per raccontare, non dico la città, ma chiaramente, però come dire, una presenza in città di una grossa parte di popolazione che per molti è sconosciuta e che viene giudicata, diciamo così, insomma, senza, sommariamente, quando invece il problema è sempre lo stesso, e che non hanno la possibilità di scegliere la loro vita. E quindi, insomma, di conseguenza poi abbandonai l'idea perché avevo un altro film da fare. E poi nel 2005, così anche casualmente, incontro la palestra Napoli Box, e lì Ciro, il protagonista del film. Quindi è stato un incontro casuale, poi, cioè, avevi un progetto? Avevo un progetto in mente. Avevo trovato in realtà un altro pugile, che era un ex pugile, un maestro, una persona molto molto particolare, in una piccolissima palestra, un pollaio. Poi lui scomparve, lui e la palestra, perché avevo accantonato, continuavo il mio precedente lavoro, che era l'Ultima Treve, su una libreria storica di Napoli e nazionale. E per caso incontrai la palestra, dopodiché, insomma, poi mi sono dedicato più o meno dal 2005 con continuità al lavoro. Senti, come hai voluto costruire il racconto? Guarda, il racconto è costruito in maniera, diciamo, narrativa sull'approccio sentimentale alle scelte della vita di Ciro. Mm-hmm. Cioè, nel senso, Ciro è una persona, come si vede nel film, diversa, diciamo, dallo stereotipo dell'immaginario del pugile, cioè una persona un po' dimessa, un po' silenziosa, molto tenera nell'aspetto estetico e anche, ripeto, nei suoi sentimenti. Però è stato campione d'Italia nel 2003, era conosciuto da tutti i campioni che oggi quasi conosciamo, diciamo, perché sono stati campioni mondiali alle Olimpiadi, cioè Valentino, Russo, questi qui. Quando siamo stati in giro, io l'ho seguito moltissimo, lo conoscevano tutti e lo rispettavano tutti, perché appunto c'è questo fare silenzioso, però molto, come dire, insomma, enigmatico e quindi, insomma, è riconosciuto come una persona anche molto valida dal punto di vista della tecnica pugilistica. Sì. E poi, insomma, mi sono così, insomma, una volta instaurato un buon rapporto, diciamo, proprio di confidenza e di intimità con Ciro, lui si è fidato di me, sono stato con lui nei momenti che ritenevo importanti per lui della vita, ho frequentato casa sua, la sua famiglia, la sua dedizione alla madre, al fratello più piccolo, ai nipoti, alla fidanzata. Insomma, mi sembrava interessante poter raccontare un arco di vita nel quale appunto succedono cose importanti e che per lui sono, insomma, rappresentano poi le scelte importanti della vita. Lui ha avuto qualche opportunità in più, perché la box e la palestra, nel periodo c'erano solo in palestra, ma la box in particolare, la palestra in particolare, sono state semplicemente la possibilità, hanno rappresentato la possibilità di avere un rapporto con delle realtà diverse da quelle che le circondano continuamente. Senti, al di fuori della palestra, immagino che la sua condizione sia simile a quella di altri giovani che fanno questo tipo di sport. Ecco, invece, a livello sociale, quali sono le difficoltà che incontrano? Prima parlavi appunto di problemi. Ma guarda, le difficoltà sono impedimenti appunto a questa gran parte della popolazione napoletana, diciamo, più povera, semplicemente. Sì, sì. E cioè quella di dover pensare a guadagnare per la famiglia, nel suo caso, insomma, poi i genitori erano divisi, il padre è stato in carcere per molti anni, vabbè, insomma, questo pure è abbastanza tipico. Quindi devono guadagnare presto, quindi abbandonano la scuola presto, che non ne capiscono le possibilità della scuola in definitiva. Sì, sì. E quindi si trovano a dover scegliere, diciamo, in poche direzioni. Cioè, sono pochissimi i lavori che loro possono fare in realtà, sì. Ma sono pochissime anche le possibilità che lo Stato offre o che loro conoscono. Certo. Cioè, nel senso che ci sono anche delle possibilità, diciamo, di formazione o anche di lavoro in alcuni casi, che lo Stato offre, ma loro non lo sanno, perché lo Stato non glielo dice, in fin dei conti. C'è, per esempio, vicino alla palestra c'era un luogo, si chiama Infogiovani, una cosa del genere, insomma, che era, diciamo, destinato a loro. Si facevano corsi di informatica, Ciro ci passava tutti i giorni davanti, ma non sapeva che cos'era. Lo portai io, lo iscrissi a questo corso di formazione per l'informatica, per il computer. Chiaramente lo ha seguito per poche lezioni, poi non c'è andato più per vari motivi, aveva da fare tutto il resto, e poi è proprio poco avvezzo chiaramente alla scolarizzazione. Ma lui non sapeva questo perché le persone che lavorano in quei posti, non sempre ma spessissimo, non hanno nemmeno loro i mezzi o la volontà di comunicare. Cioè ci andavano di fuori sede, ci andavano quelle persone che normalmente, e quindi usufruivano di quel servizio che era destinato ad altri, persone diverse diciamo da quelli a cui era destinato. Questo per una mancanza di contatto, cioè questo discorso. Lo Stato interviene soltanto nei momenti di emergenza e non cura quello che diciamo potrebbe essere la vera soluzione, cioè la formazione e non l'assistenza, ma la responsabilizzazione, la conoscenza dei diritti. Anche fornire opportunità, insomma. E fornire chiaramente le opportunità, perché non è una colpa la povertà, ecco, non so come dire. Quindi io dico che Ciro fa un atto di resistenza perché l'atto di resistenza è quello di non che sia, come dire, scontata la delinquenza, non è questo, anche perché le forme di delinquenza in questi luoghi chiaramente hanno, come dire, una scala di intensità, cioè si va dal piccolissimo traffico di merce rubata, insomma delle cose quasi legali, potremmo dire, ad una delinquenza più grossa. Lui chiaramente ha sviato e ha, lui come tanti altri, però diciamo che vedere come tutto il quotidiano, da accendere uno stereo, da accendere il computer che poi nel tempo ha comprato, diventa difficile, ecco, questa è un'altra resistenza, diciamo, il cercare invece sempre la via giusta, sempre una normalità, scrivo anche questo, insomma, quello che è una normalità che riguarda il lavoro, la famiglia, conquistarlo, per loro è un atto di resistenza. Senti Marcello, allora poi ricorderemo l'appuntamento della prossima settimana di Italia Doc. Voglio sapere, c'è modo di avere maggiori informazioni sul tuo documentario in internet? Sì, ci sono dei siti che hanno riportato le notizie rispetto al documentario e ai premi, insomma, che sono Infocinema Italiano, Movie Player, e vabbè, ci sono articoli di giornali, sì, insomma, e c'è il sito chiaramente della produzione che è Parallelo 41. Quindi lì si può trovare anche un calendario di proiezioni. Sì, sì. Bene. Allora, ricordiamo l'appuntamento che è all'interno della rassegna Italia Doc, mercoledì 24 marzo alle ore 16, l'ingresso è gratuito chiaramente, e in bocca al lupo per le prossime proiezioni a questo grazie, punto. Grazie, vive il lupo. Marcello, a presto. A presto. Ciao. Ciao. E questo era Marcello Sannino, regista del documentario Corde, sulla box a Napoli. Ritroviamo Simone Amendola, che era stato con noi per presentare il suo documentario Quando combattono gli elefanti. Ben ritrovato. Ciao, buongiorno. Questa volta per parlare del tuo documentario Alicia nel Paese delle Meraviglie, la pronuncia è giusta del nome? Sì. Ok. Sì. Che è già stato presentato e ha ottenuto anche qualche riconoscimento, se non sbaglio. Sì, è stato presentato a dicembre a Visioni Fuori Raccordo, sì. Qui a Roma, dove ha preso una menzione ai migranti, e poi adesso a febbraio al Festival Cinema di Lazio, che ha vinto la sezione doc e corto, e quindi vabbè, mi riempie di gioia, ecco. Allora, per chi ci ascolta, parliamo della storia. La storia è praticamente il quartiere di Cinquina, sì, a Roma, che è un quartiere nuovo, nato mi pare nel 2001-2002, dove hanno in qualche maniera dirottato tutti quelli che stavano nelle case occupate di Ostia e di Bastoggi. Sì. E quindi in qualche maniera si è creato questo quartiere che è in tutto e per tutto uguale alle banlieue parigine. Ci sono ragazzi, diciamo, tutti di seconda generazione, senegalesi, egiziani, marocchini, capoverdiani. E quindi in qualche maniera, diciamo, io lì 7 anni che ci vado facendo dei lavori con una cooperativa. Abbiamo fatto prima un videoclip di una band rap lì del quartiere, sì. Poi un cortometraggio, e quest'anno, diciamo, un po' la summa è questo documentario di 40 minuti in cui, diciamo, sostanzialmente ci sono due nascite: la nascita di una bambina tra un ragazzo di colore e una ragazza italiana, e la nascita di una Roma nuova, cioè di una generazione nuova, anche di un... Infatti il finale del film è commentato dalla società dei Magnaccioni. Ecco. Senti, tu che l'hai frequentato, lo stai frequentando da anni questo sì. Nuovo quartiere, quali sono le caratteristiche principali rispetto, per esempio, agli altri quartieri storici di Roma? Ma guarda, sicuramente è molto particolare, perché io abito a Centocelle, frequento un po', conosco abbastanza la periferia di Roma, e lì Cinquina è molto particolare per il semplice fatto che non la senti proprio la dimensione dell'immigrazione, nel senso, lì è quella è la realtà del quartiere. Non è che c'è un diverso da sé, nel senso, quella è la realtà. E sì, la cosa che colpisce è che mentre gli italiani che stanno lì, che vengono appunto dalle occupazioni, da realtà comunque disagiate, danno un po' l'idea di una situazione molto degradata, gli immigrati, soprattutto i musulmani, sembrano proprio il futuro dell'Italia, nel senso che i genitori ci tengono i figli che studiano, tutta una serie di, diciamo, di valori di una nazione civile, ecco, di un progresso. Senti, i rapporti tra appunto gli ex occupanti e i migranti di seconda generazione? Ma guarda, più o meno sono loro gli occupanti, nel sì, senso sì, che anche sì, questi ragazzi vengono tutti anche da, loro dalle occupazioni, occupazioni sì. E anche il modo quindi di valorizzare il fatto comunque di avere una casa, cioè anche se è un quartiere un po' ghetto, sì, però è un po' diverso dai vari, dal Serpentone, da queste cose così materialiste e molto fredde. Lì è un quartiere, comunque sono delle casette rosse basse, diciamo più vivibile, c'è un giardino in mezzo, ecco, una dimensione un po' diversa. Ci sono anche fenomeni o piccoli momenti di auto-organizzazione, non so, penso per la socialità, ad esempio? Praticamente io ho iniziato ad andare lì con la cooperativa Parsec, che non avendo un luogo fisico lì nel quartiere, faceva, diciamo, unità di strada, cioè gli operatori sociali avvicinavano i ragazzi così, un po' per prenderci rapporto, un po' magari anche per organizzare delle cose. Appunto, in questo contesto nasce un po' il primo lavoro che ho fatto lì con loro, un po' per coinvolgerli. Diciamo che come tante comitive, come tanti gruppi di adolescenti, la cosa che manca è la progettualità. E quindi, sai, pomeriggi di canne e fancazzismo, e invece, se in qualche maniera, siccome le energie e degli spunti ce l'hanno, e anche notevoli, in qualche maniera, diciamo, un intervento dall'esterno che dà un po' di progettualità, crea una dimensione delle possibilità, ecco, questo è stato. E questa cosa fino a quest'anno è andata avanti, poi quest'anno purtroppo ha cambiato amministrazione il quarto municipio e alla cooperativa Parsec gli hanno tolto il finanziamento. Senti, il progetto. E i problemi principali che ti sei trovato di fronte, che si vive questa cittadinanza? Ma diciamo un po', ecco, l'esclusione. L'esclusione. Sì, nel senso che vivono il fatto. Il documentario per esempio inizia con voci fuori campo dei protagonisti che descrive, ognuno descrive quanto tempo ci mette ad arrivare al centro di Roma. E uno dice devo prendere quest'autobus, quest'altro, quest'altro, quello col motorino non truccato ci metto così, col motorino truccato ci metto così. E ecco un po' diciamo la distanza, ecco, l'esclusione, il fatto di creare queste realtà che però poi non dialogano con di fatto separate città. Dalla città, sì, insomma. Sì, sì, sì. Questa mi pare la cosa più forte. E poi i problemi di questi ragazzi di seconda generazione legati, ecco, al permesso di soggiorno. C'era un ragazzo che dice l'altra volta mi hanno fermato, volevano portarmi in questura, e io ho pensato che c'ho più problemi io che sono nato qua piuttosto che uno che è venuto da 2 giorni. Senti Simone, le prossime, ci sono previste proiezioni pubbliche? Allora, a breve no. Si stanno definendo un po' di cose, altri festival, quindi spero, anche presto spero di rifarla a Roma. Per il momento c'è la cosa che è entrata, diciamo, nella produzione, è entrata la Filmaltos e hanno l'interesse a mandare diciamo una copia del documentario ai parlamentari e ai senatori per muoverli un po' a rendersi conto della società che è cambiata, ecco. E quindi questa diciamo dovrebbe essere una prossima iniziativa. Senti, sul web per maggiori informazioni? Su cinemaitaliano.info c'è tutta la scheda, del documentario con il trailer. Quindi chi fosse interessato può trovare tutto lì. Benissimo. Allora ci sentiamo magari per novità, se magari anche eventuali messe in onda televisive. Nel frattempo ti auguro un in bocca al lupo. Grazie e buona trasmissione. A presto, ciao Simone. Ciao. Simone Amendola, regista del documentario Alicia nel Paese delle Meraviglie. Come ogni anno Alessandro D'Urso per parlare di Cartoons, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. E tra l'altro siamo alla 7ª edizione. Sì, con un po' di pazienza ce l'abbiamo fatta. Allora, dal 24 al 28 marzo qui a Roma, al Palladium, se non sbaglio. Come sempre al Palladium, come sempre di ingresso libero. A ingresso libero, fondamentale. Allora, cosa c'è in programma? Allora, guarda, diciamo che per chi già conosce il festival, e immagino molti dei tuoi ascoltatori perché ci seguite da sempre, diciamo, l'impianto del programma si ripete più o meno ogni anno, chiaramente cambiando i contenuti. Noi partiamo sempre con un omaggio ai cartoni animati, in questo caso, quindi non corti di animazione, degli anni 30, 40, 50. Quindi quest'anno Ian Freeling, Robert Clampett, Charles Jones, Walter Lance, Tex Avery, da Beep Beep a filmati inediti di Silvestro piuttosto che. Beh, tra l'altro un trentennio, per cui insomma un ampio spettro. Esattamente, un ampio spettro, facendo chiaramente vedere cose che sono fuori dai circuiti televisivi normali, chiaramente. Sì. Quest'anno abbiamo i nostri soliti seminari, che sono sullo storyboarding con digital video, due seminari dell'Accademia Italiana dei Videogiochi, quindi sulle fasi di realizzazione di un videogioco in 3D, e poi il motion capture con Pool Factory. Quest'anno dedichiamo un focus sull'animazione tunisina, per cui ci saranno dei nostri ospiti tunisini, faranno vedere molti dei loro lavori, alcuni veramente avanzati dal punto di vista proprio tecnologico, anche del 3D. Ti dico rapidamente che c'è una serie che si chiama Tunis 2050, ed è praticamente una serie in 3D molto molto avanzato, in cui realizzata dai tunisini, dove loro si vedono proiettati nel 2050, ma con usi, costumi, abitudini e comportamenti di oggi. Quindi, diciamo, una clamorosa presa in giro fatta da loro stessi. Quindi è una cosa molto divertente e interessante da vedere, perché non capita spesso, diciamo, che il mondo, come dire così, nordafricano si prende in giro da solo in questo modo. E poi vederlo in ambito cartoon, perché insomma a noi è qua praticamente ignoto. Esattamente. Poi quest'anno una novità più importante è che quest'anno per la prima volta abbiamo aperto il concorso ai lungometraggi. Sì. Quindi quest'anno avremo tre lungometraggi in concorso, in particolare avremo Mitropia, che è stato presentato al film di Venezia di Tariq Saleh, un film veramente straordinario dal punto di vista tecnico, quindi di immagine, e poi fra l'altro il divertentissimo Panico Village, che ha vinto premi in tutto il mondo, che uscirà fra neanche un mesetto nelle sale italiane, che presentiamo in anteprima, ed è un film totalmente realizzato in stop motion con i soldatini, quindi un lavoro strepitoso, è un film veramente molto divertente. E poi i nostri eventi live, a parte un intervento live di Lillo e Greg mercoledì 24, abbiamo la nostra punta di diamante quest'anno, è sabato 27, ci sarà una performance di basso solo di Gianni Maroccolo, bassista e produttore dei Litfiba, CSI, CCCP, PGR, Marlene Kunz, chi più ne ha più ne metta, che ha composto per noi 40 minuti di basso solo sui nostri corti. Ah. E quindi ci sarà questa performance unica e irripetibile del buon Maroc, così come lo chiamano i suoi fan, no? E sarà veramente un evento unico, consiglio di venire, e anche di venire con un certo anticipo, perché il festival, diciamo, è già di per sé sempre affollato, ma nelle situazioni di interventi live c'è veramente... Quindi una musicazione dal vivo, nel senso ci saranno anche le proiezioni mentre ci saranno le proiezioni di 40 minuti di corte che abbiamo scelto insieme, quindi è un percorso logico, e lui ci suonerà sopra, li musicherà, non li sonorizzerà, cioè non saranno sarà la sonorizzazione, ma sarà proprio la musica vera scritta da lui. Forse ci sarà qualche ospite portato da lui, quindi insomma grande musica veramente quest'anno. Bene. Oh, io volevo chiederti anche, mi interessa anche il discorso che stai portando avanti sulla fruizione poi di questo ampio materiale che raccogli per le tue edizioni di Cartoons. Sì, abbiamo provato anche quest'anno a realizzare una compilation che presenta tante difficoltà, soprattutto per un festival indipendente come sai che noi siamo. Certo. Che non ha finanziamenti pubblici come sai che noi non abbiamo, quindi sono tutti sforzi interni, ma comunque funzionano sempre molto bene i nostri 5 canali sulla piattaforma Streamit, per cui basta andare su www.streamit.it, ci sono i 5 canali Cartoons, e da lì con un palinsesto di 24 ore su 24 che cambia tutti i giorni, c'è diciamo, un panorama sia delle proiezioni di quest'anno che degli anni passati, che proprio dell'animazione in generale, quindi anche quello chiaramente è una piattaforma completamente gratuita di altissimo livello tecnologico. Senti, a proposito, come sta andando l'esperienza Streamit? L'esperienza Streamit sta andando molto molto bene, siamo arrivati ad 80 canali. C'è tutto, dalla box con la WBC a Istituto Luce, a tantissimo materiale, e diciamo siamo già sbarcati, ma lo facciamo ufficialmente tra 15 giorni in Giappone, con una piattaforma completamente e totalmente dedicata al mercato in giapponese, tutta in giapponese. Quindi insomma proporremo anche l'animazione italiana in Giappone, cioè proporremo l'animazione che il Giappone non propone, nel senso che il Giappone produce molta animazione, ma vede in Giappone, si vede l'animazione giapponese. Oh, a livello generale, quest'anno è stato l'anno, è cominciato all'insegna di Avatar come film da più parti definito storico dal punto di vista tecnico, e soprattutto l'avvento poi nelle sale del 3D su più livelli. Ecco, come vedi tu l'evoluzione dell'animazione? Guarda, io tutto quello che è una evoluzione molto molto repentina, molto pompata dai media, diciamo, io non la vedo mai di buon occhio, diciamo, questo come linea generale, nel senso che ho visto poi molti film, cioè una cosa è un film realizzato in 3D, proprio realizzato per il 3D, per la visione in 3D, e poi esistono anche i film che sono usciti, faccio un esempio, Coraline, che è uscito un paio di anni fa, è uscito in versione normale, è stato poi in qualche modo, diciamo, pompato, si fa per dire, sul 3D, sulla visualizzazione in 3D. Questo significa che poi non è un 3D reale. Io ho visto nell'arco di 15 giorni aumentare a Roma le sale da 4 a 15. Mi piacerebbe sapere in realtà poi che impianti hanno, cioè va benissimo, sono felice del 3D, soprattutto nell'animazione, se sono dei film girati in 3D e se poi i cinema, le sale hanno tutta l'attrezzatura giusta per poi proprio in 3D. Ho paura che questa, capito, questa maquillage, insomma, questo maquillage alla fine piace al pubblico, la gente va e tutto così, quindi poi fra un anno qualsiasi film si faccia che non è in 3D sembra una cosa antica. Mi piacciono, diciamo, i cambiamenti, mi piacciono graduare, mi piace che il pubblico assimili le cose, che ci sia, diciamo, cognizione di causa di quello che si fa e di quello che si vede. Oh, senti, in base anche all'esperienza delle le sei edizioni trascorse di Cortoons, la produzione italiana? La produzione italiana la produzione italiana, guarda, il livello della produzione italiana è anche buono, e la quantità, come sempre, è molto molto scarsa, non essendoci formazione. Guarda, io quest'anno faccio una proiezione, il nostro festival, come sai, non è un festival per bambini, non sono praticamente ammessi i bambini, perché sono di contenuti che non sono per loro. Quest'anno ho deciso di fare una proiezione speciale, su, che si chiama Esperimenti di Cinema, su due scuole, una scuola la scuola Roncaglia in provincia di Padova e l'ITER di Torino, con ragazzi delle elementari, hanno realizzato 5-6 cortometraggi, realizzati interamente. Cioè i ragazzi hanno fatto tutto, hanno fatto la musica, hanno fatto il montaggio, hanno fatto praticamente tutto, non come accade in alcuni casi in cui noi bambini magari scrivono un soggetto così e poi sono delle case di produzione che realizzano. Quindi in realtà c'è una formazione strana in Italia, perché sono scuole, no, che insegnano a fare i cortometraggi dell'animazione ai bambini di 10 anni, però poi non c'è nessuno sbocco, muoiono così nel nulla. Quindi io quando vedo situazioni di formazione, soprattutto sui ragazzi giovani, cerco sempre di dargli un po' di respiro, un po' di visibilità, perché il problema poi è sempre quello. Adesso probabilmente si partiranno subito con la formazione sul 3D, no, in Italia, cosa che ovviamente mi aspetto, quando chiaramente non c'è il background per nulla, quindi insomma ci ritroveremo anche su questo, diciamo, indietro. Sì, anche perché insomma al di là dei colossal nelle sale, poi il problema, come anche per i film, come anche per i documentari e a maggior ragione per l'animazione, è quello della distribuzione, poi come fruirne, poi come, dove vederli. Esattamente, poi tutto questo ha dei costi chiaramente molto più alti, per cui probabilmente no, le produzioni destineranno buona parte dei budget no, su produzioni colossali in 3D, ma molte volte inutili, ma fatte in 3D soltanto perché è la moda del momento, sì. Levando fondi poi a opere fatte in cinema normale, tradizionale, anche non in animazione, che però chiaramente hanno un valore probabilmente molto più alto delle pellicole in 3D, quindi è una situazione in continua evoluzione, quindi insomma chi vivrà vedrà quello che succederà, certo. Però insomma le premesse non sono secondo me delle migliori. Poi comunque voi già con l'esperimento Streamit un segnale, un'ipotesi alternativa l'avete lanciata, insomma. Ah beh sì, guarda, aspettiamo soltanto che il mercato se ne accorga, sì. Va bene Alessandro, allora ricordiamo le date, il luogo che è il Palladium, 24-28 marzo, gli orari? Dalle 16.30 fino alle 24, tranne domenica che è dalle 16. Ingresso è gratuito, sì. Settima edizione, Cortunz, in bocca al lupo e a risentirci presto. www.cortunz.it per chi vuole informazioni. Bene, bene, un abbraccio. Ciao Federico, grazie ciao. A tutti. Ciao. Ciao. Alessandro D'Urso, direttore della settima edizione di Cortunz. Con Vincenzo Patanè Garcia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, direttore di Taxi Driver, rivista indipendente di cinema che ha anche una sua edizione online. Sì, abbiamo un'edizione online che è www.taxidrivers.it, che è il portale dove ovviamente cerchiamo di aggiornare tutti quanti in merito a quelle che sono le realtà sul cinema indipendente. Quindi eventi, comunicati, tutto quello che riguarda insomma il cinema un po' più sommerso, tra virgolette. Avete organizzato un evento, ossia la proiezione di un documentario storico, Sympathy for the Devil, sugli Stones, su Rolling Stones, per domani sera all'Angelo Mai. Sì, esatto, questa è un'iniziativa che abbiamo curato insieme ai ragazzi dell'Angelo Mai in seguito all'uscita di questo DVD insieme alla rivista in edicola, e è la prima volta insomma che praticamente organizziamo una cosa qui a Roma, e ci sarà sia la proiezione del film e sia poi anche una serata poi che segue con DJ set e altri ospiti insomma che rappresentano altre realtà del circuito indipendente. E il film, come ripeto, è uscito in allegato con la rivista in edicola ed è, non so se già ne hai parlato, ne hai già parlato te? No. Tra l'altro ero curioso di sapere come mai la scelta di questo lavoro. Sì, in realtà è già la seconda volta che portiamo un film di Godard in edicola, perché abbiamo questa partnership appunto con la Raro Video, che è specializzata in film un po' più di nicchia, e vabbè, noi siamo comunque dei fan a prescindere di Godard, quindi abbiamo avuto la possibilità di allegare questo film, per cui l'abbiamo fatto con molto piacere. Questo è un film che tra l'altro non ha avuto negli ultimi anni grandi riscontri diciamo a livello di visibilità, per cui abbiamo approfittato diciamo dell'ospitalità dell'Angelo Mai per promuovere insomma un film che è, secondo me, comunque molto d'attualità. per quello che è insomma un po' l'aria che si respira in questi mesi insomma in Italia. Ovviamente questo è un film del 1968 che fa di Godard insomma uno dei rappresentanti più eminenti di quello che è stato il binomio tra cinema e politica. Senti, invece raccontaci un po' di Taxi Driver, delle scie che segue rispetto al sommerso, al cinema sommerso. Ma Taxi Driver è una rivista che è specializzata proprio in cinema indipendente, cioè noi vabbè mensilmente selezioniamo quelli che sono i film più interessanti in sala, ma per il resto, ovvero il 90% diciamo di quello che editiamo riguarda piccole produzioni o film indipendenti che non trovano distribuzione in Italia ma soltanto nei festival, per cui siamo molto presenti nei festival italiani e cerchiamo di intervistare registi alle opere prime ma anche registi più affermati che hanno titoli magari più scomodi o che comunque, come ripeto, non hanno una grossa distribuzione. È una rivista che è nata nel giugno del 2006 ed è il risultato di una serie di esperienze accumulate da un gruppo di ragazze e di ragazze che ci lavorano quotidianamente. È divisa in rubriche, tra cui molto seguite appunto Videodrom, che è uno spazio dedicato al film di importazione o anche a film sommersi, di cui si trovano poche informazioni persino in rete. Tra l'altro ci siamo diciamo alleati con diversi blogger italiani che comunque facevano del cinema indipendente diciamo la loro linea editoriale, per cui abbiamo diverse partecipazioni di ragazzi in tutta Italia che hanno uno spazio sia all'interno del nostro sito sia all'interno della rivista cartacea. E poi abbiamo anche delle rubriche dall'estero, sia da Londra che da Berlino, ed entrambe le rubriche parlano di quelle che sono le realtà più importanti del cinema indipendente inglese e tedesco. E poi niente, ci siamo anche accordati con altre piccole realtà di Bologna, Firenze, Pescara e Torino che ci aiutano diciamo a fare un po' di militanza, quindi a portare le riviste nei piccoli festival, nei dance, insomma tutte quelle realtà che possono essere interessate a essere aggiornati su un argomento di cui poi alla fine si parla solo nei blog, a livello cartaceo non se ne parla quasi mai, perché diciamo che la maggior parte delle riviste ovviamente sono dedicate ai film in sala, mentre diciamo proiezioni più d'avanguardia non trovano molto spazio, come saprai, insomma, tanti altri giornali. E poi niente, da 2 anni da questa parte abbiamo fatto una collaborazione, abbiamo messo su una collaborazione appunto con la Raro Video e siamo in edicola. Non tutte le edicole ovviamente siamo presenti, abbiamo degli accordi con un bel po' insomma di edicole sia di Roma che di altre città e siamo usciti in passato con Tsukamoto, Jodorowsky, Lars von Trier, Di Leo, Margheriti eccetera. E questo mese appunto abbiamo voluto proporre Sympathy for the Devil. Senti, come riferimento allora diamo in chiusura nuovamente quello del sito della rivista. Il nostro sito è www.taxidrivers.it e ricordiamo anche l'appuntamento di domani, la proiezione. L'appuntamento di domani è alle Terme di Caracalla, a Viale delle Terme di Caracalla 55 all'Angelo Mai. Alle ore 20:30 c'è la proiezione del film, l'ingresso è 5 euro e poi ci stanno comunque, come vi ripeto, anche tante altre realtà. Qui sarà sicuramente una bella serata. Se volete venire siete ovviamente benvenuti. Allora in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie. Ciao. Vincenzo Patanè Garzia, direttore di Taxi Driver, la rivista indipendente di cinema. Ora invece una notizia che ci arriva dalla città, una corrispondenza, andiamo a collegarci. direttori del Cineclub Alphaville, eccoci, ben ritrovata. Grazie anche a te, anche a voi, buon pomeriggio, state tutti bene? Tutto bene, di primavera, tutto insomma. Bene. Moravia, l'uomo che guarda, è cominciata ieri la rassegna da voi, andrà avanti fino al 21 marzo, parlacene tu. Guarda, vi dico subito che ci sembrava noi di Alphaville, come dire, quasi indispensabile ricordarci a 20 anni dalla scomparsa di Alberto Moravia, che tra l'altro è stato un grandissimo scrittore italiano e poi è stato anche un, come dire, un elemento dal punto di vista intellettuale fondamentale proprio per la nostra città, per i rapporti che nella nostra città ha avuto con tantissimi altri intellettuali, scrittori, registi, ha sposato il Samorante, poi da Ciamaraini, è stato comunque molto vicino, ma in maniera davvero fondamentale ad alcuni, forse era uno dei nostri veramente più grandi intellettuali e poeti che insomma abbiamo avuto nella storia italiana, che è Pierpaolo Pasolini. Infatti tra l'altro una delle cose insomma che noi faremo vedere è proprio questo piccolo passaggio in cui lui durante il funerale insomma di Pierpaolo Pasolini gridò proprio un urlo di dolore dicendo che era morto un poeta, e lo gridò con una forza incredibile che davvero insomma soltanto chi se ne rende davvero conto può trasmettere a tutti quelli che lo stanno ascoltando e che lo vedono. Ecco, diciamo che Moravia è stato davvero un personaggio importante appunto nella storia non soltanto italiana, che è fondamentale, ma anche e soprattutto romana. Noi gli dedichiamo una rassegna che trae spunto appunto da alcuni suoi principi, tra i lavori più grandi, più importanti, dei suoi romanzi più importanti. Tra l'altro ieri veramente è anche iniziata con Racconti romani di Franciolini, un film del 55, molto, come dire, molto datato, però anche molto vicino allo spirito con cui appunto furono scritti in un certo senso questi racconti, seppure insomma in maniera un pochino più becera, proprio per trascinare il pubblico. Però come ho detto ieri nella presentazione, nell'introduzione appunto alla rassegna, in realtà anche il film di ieri, che rispetto a quelli che stiamo per proporre da stasera a domenica forse anche quello meno autoriale, tuttavia c'è un interesse fondamentale nell'averlo riproposto, che è quello di aver dato vita il film dal romanzo, dai racconti, ad una serie che poi ha visto il suo massimo splendore con I soliti ignoti di Maria Monicelli e successivamente con Fabriera Cavallo, e cioè quelle famose serie in cui 4-5 personaggi un po' come diciamo noi a Roma, un po' scacciati, così si dice Federico, ecco, danno vita diciamo a una specie di, come dire, gruppo che cerca in qualche modo di sopravvivere truffando alla meno peggio, ma chiaramente poi non ci riesce. Ecco, questo genere di film è iniziato proprio con la cinematografia tratta da Racconti romani e quindi con Alberto Moravia. Tra l'altro mi piace anche ricordare che Alberto Moravia di se stesso diceva che appunto aveva avuto questa diciamo fortuna tra virgolette, che poi era stata una sfortuna colossale. Lui era malato di tubercolosi ossea e non avendo assolutamente molto da fare già dall'età di 9 anni e dovendo stare a riposo nei sanatori, l'unica soluzione per poter sopravvivere tra virgolette fu secondo lui quella di scrivere. Mi veniva proprio in mente questa cosa perché ieri appunto introducendo la rassegna ne parlavamo con degli spettatori e facevamo questo parallelo. Pensa te, se avesse avuto la tubercolosi ossea oggi magari non avrebbe scritto e si sarebbe incretinito davanti alla televisione, va a sapere che cose nella vita che possono succedere. Quindi siamo stati fortunati, no, ad averlo. Ecco, e i film che invece da stasera diciamo danno vita appunto a questa rassegna sono film davvero più autoriali. Per esempio stasera c'è Agostino appunto che è tratto dal romanzo, diciamo da uno dei romanzi principe, tra l'altro, che io amo particolarmente, non so a te Federico che ne pensi, però per me è veramente un romanzo fondamentale nella storia italiana del romanzo e anche nella storia di Alberto Moravia, perché è davvero un romanzo di formazione. Sì. Noi stasera faremo vedere, tratto appunto da Agostino, poi ne leggeremo anche qualche pagina, appunto l'omonimo film di Mauro Bolognini. Tra l'altro anticipo che prima o poi farò una rassegna su Mauro Bolognini, perché insomma non lo fa nessuno, non capisco perché, ha fatto dei film. E poi nelle tue rassegne ogni tanto ci capita qualche titolo suo. Certo che ci capita, perché no, io sono molto triste quando vedo che ci sono dei registi abbandonati proprio. È vero che adesso hanno restaurato i film di Bolognini, io ogni tanto ci ometto, così come ogni tanto metto molto spesso Jean-Luc Godard, che infatti sarà presente con Il disprezzo nella versione, sottolineo, originale con i sottotitoli e quindi non nella versione massacrata dalla distribuzione di Carlo Ponti. e quindi questo mi sembra una cosa interessante. Poi abbiamo messo appunto Il conformista di Bertolucci, che mi sembra altro titolo, come dire, da non perdere e da rivedere, come direbbe Ghezzi, insomma, quindi un titolo fondamentale, un libro fondamentale, un romanzo assolutamente impegnativo anche per la lettura, seppur semplice, come tutti i romanzi di Moravia, che usano un linguaggio un po', come dire, trasversale ai vari tipi di lettore, e che però in questo caso, insomma, fanno il punto anche su situazioni di fascismo e quant'altro, insomma, dell'epoca, e non è cosa di poco conto. Tra l'altro sottolineo che poi sabato invece ci sarà quel film che secondo me è molto interessante, di Francesco Maselli, che tra l'altro è stato anche nostro ospite Alfa varie volte, ma non questa, per questa rassegna, che è appunto Gli indifferenti, un film che all'epoca non è stato molto compreso, così come peraltro non fu compreso Agostino, ma che per quanto mi riguarda è un film invece da rivedere, perché ben trasferisce l'atmosfera del romanzo di Moravia e soprattutto trasferisce anche l'atmosfera dell'epoca, che è un'atmosfera di crisi appunto della borghesia, di trasformazione della società. Tutto questo sta in Moravia, prima ancora che nei registi di cui stiamo parlando. E poi appunto, non so se vi ho detto che c'era Blow Up di Michelangelo Antonio, questo non ve lo potevo dire perché diciamo forse sarà in un'altra rassegna probabilmente, quindi insomma, comunque queste sono le cose che noi, diciamo, abbiamo selezionato per ricordare appunto la vita letteraria di Alberto Moravia. Bene. Ci sarà la possibilità anche di leggere, ecco, questo non ve l'ho detto, ci sarà anche la possibilità di poter leggere qualche pagina di un capitolo che non è stato mai pubblicato appunto dal romanzo Il conformista, e quindi ci sarà la possibilità poi anche di discuterne, e magari chi vuole potrà anche portare sue testimonianze personali, leggere, eccetera, come al solito. Bene, allora per il programma rimandiamo al sito del Cineclub Alphaville. Sì, naturalmente. Un abbraccio e a presto. A prestissimo, buon pomeriggio. Ciao, grazie a tutti, ciao. Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville. Federico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Sto uscendo da... Comunque ti sento. Ti sento che vai e vieni. Guarda, sto arrivando dove mi sentirai senza andare a venire. Ok, adesso ecco. Eccomi. Ecco. Ciao. Qui. Allora, per le uscite... non solo di questa settimana, ma anche di quello che già è uscito in sala e che vale la pena, insomma, di segnalare, perché è un po' che non ci sentiamo. Sì, allora, innanzitutto di quello che esce in sala, a me è piaciuto Luca Guadagnino, Io sono l'amore, sì, che è stato già presentato in Orizzonti al Lido, forse ne avevamo già anche parlato. Comunque è un nuovo gruppo di famiglie in interno milanese, girato da Guadagnino, dando per la prima volta prova di quel talento di cui si aveva avuto solo qualche suggestione, indizio nei suoi film precedenti, che non sono di certo memorabili. Basti ricordare Melissa P, sì, o The Protagonist. Qua credo qui emerge proprio una raffinatezza stilistica. Sì, una grande raffinatezza stilistica, anche per i contributi tecnici dal direttore della fotografia alle musiche, che sono contributi che già sono stati di Assayas o di Ozon, quindi cinema europeo. E in effetti questo è un film dal sapore molto europeo, che riesce a rendere a tratti, credo, straordinaria, comunque molto suggestiva e molto analitica anche in senso politico, quella che è una storia, un punto di partenza in verità abbastanza banale, ovvero una donna dell'alta borghesia milanese, Tilda Swinton, si innamora dell'amico del figlio, un proletario, un cuoco che ricalca molto anche il precedente lavoro documentarista di Guadagnino, appunto Cuoco Contadino, qua affidato a Edoardo Gabriellini. Ma è proprio lo stile di Guadagnino che rende questo, a mio avviso, un grande film, perché sa, come dire, tenere la misura, ovvero non concede mai alla storia di andarsene, di scorrere senza stile o viceversa con un eccesso di stile. Ed è proprio in questo binario che poi si possono fare, suggerire anche dei paragoni, per esempio quella, la famiglia protagonista, come un alter ego implicito, ma neanche troppo coperto, della famiglia Agnelli. Quindi sicuramente un film da consigliare. Ricordiamo, esce con Mikado, che non ha fatto un grande lavoro per questo film. Io, in una rubrica che tengo ironica, ho scritto che se aspettavano ancora un po' avrebbero dovuto cambiare il titolo in Io ero l'amore, perché è stata davvero un'uscita più volte rimandata, e adesso mi sembra che venga buttata in sala anche abbastanza lo sbaraglio. Un altro titolo da consigliare, anche questo già se ne è parlato perché addirittura è stato presentato a Cannes l'anno scorso, dove ha vinto il Grand Prix della giuria presieduta da Isabelle Huppert, è Un Profè di Audiard, di Jacques Audiard. Dico Un Profè col titolo originale perché la BIM ha combinato un pasticcio, ovvero esce in Italia con il titolo Il Profeta, e non è una traduzione erronea da poco, perché mentre l'indeterminativo Un Profeta suggerisce appunto anche la chiave ironica con cui Audiard si accosta al suo protagonista, un criminale che in carcere riuscirà a studiare e a studiare anche da boss, Il Profeta invece eleva tutto a paradigma, anche alla nascita di un capo, di un capoclam, potremmo dire, che Audiard non aveva assolutamente nelle intenzioni. Viceversa, è un film potente, che affida anche alle digressioni, dei flashback onirici, un discorso che combina da una parte il prison movie e dall'altra il gangster movie, con suggestioni anche noir, con citazioni colte da Melville fino la ballata di Mackie Messner citata nel finale, ovvero Bertolt Brecht. E in mezzo cosa rimane? Una riflessione che è un po' il leitmotiv, credo, del cinema di Audiard, da tutti i battiti del mio cuore, passando sulle mie labbra, ovvero una riflessione sull'oppressione del singolo da parte della società, del sistema, sì, del sistema collettivo, più o meno declinato secondo accezioni politiche. È una riflessione che affida sempre prima al corpo e poi alla mente, non fa eccezione questo film, e poi porta una nuova riflessione che è un po' un corollario di questo, ovvero riflette sulla violenza, della repressione della violenza, ovvero il sistema carcerario, però lo fa come in modo delegato, ovvero non ci sono secondini, non c'è il sistema giudiziario più di tanto nel film, ovvero la repressione della violenza è affidata a un'altra gang, perché uno degli, diciamo, i due antagonisti del film sono, da una parte, il protagonista, un arabo musulmano che finirà per fare, per diventare il leader dei musulmani, e dall'altra parte la gang capeggiata da Cesar Luciani, un magnifico Nils Arestrup, che è la band, la gang dei corsi. Quindi ai corsi stessi viene affidato quello che in altre produzioni, anche in serie TV americane, pensiamo per esempio a Prison Break, solo per citarne una, è affidato di solito alla polizia. Non è uno slittamento ideologico, credo, di poco conto, anche se non leva valore a questo, che è un film sicuramente da consigliare. E da ultimo, sempre per rimanere alla nuova offerta in sala, Fuori controllo, sì. Con Mel Gibson, il regista, il due volte 007, non è capitato a molti, credo, forse due o tre registi, Martin Campbell, che adatta per il grande schermo, anche grazie a un sceneggiatore premio Oscar, quale William Monahan, quello di The Departed di Martin Scorsese, per intenderci, ha dato una serie TV britannica degli anni 80, quell'omonima, il titolo originale Edge of Darkness, di cui aveva diretto lui stesso appunto nell'85 sei episodi. Anche qua l'avvio è in medias res, la figlia del poliziotto Mel Gibson, già veterano del Vietnam, torna a casa a Boston e il padre se la ritrova ammazzata, la prende tra le braccia sull'uscio di casa, ammazzata a pallettoni. C'è un dettaglio anche divertente, comunque interessante, perché Mel Gibson, che ritorna dopo 8 anni sullo schermo davanti alla macchina da presa nel ruolo da protagonista, ci ricorda in questi 8 anni cosa ha fatto. Innanzitutto ci ricorda qual è la sua passion, la sua passione, perché la figlia gli muore appunto tra le braccia e lui farfuglia l'estremunzione. Credo che questo sia un'aggiunta che ha voluto lui stesso. Per il resto è un film con qualche infamia, soprattutto ci sono incongruenze di sceneggiature e anche delle mancate consecutio tempore, potremmo dire, che fa addirittura pensare che sia stato tagliato in un secondo tempo, e ci sono appunto delle gravi incongruenze di sceneggiatura che da un premio Oscar, come il già citato Monahan, non ci aspetteremo. Ma c'è anche dell'altro, ovvero se il canovaccio è quello solito della cospirazione, un canovaccio tipicamente anche anni 70, una cospirazione che ovviamente non può prescindere dalla foto di George W. Bush, da un discorso sulle armi nucleari assemblate negli Stati Uniti ma poi esportate quali bombe sporche della Jihad, contemporaneamente in questo canovaccio obsoleto il film fa qualcosa di più. Innanzitutto Mel Gibson riesce a non strapparci le lacrime, e in questo caso è quasi sempre un motivo positivo, un punto a suo favore. Non solo, c'è un altro grande attore, lui è bravo, ma c'è un altro attore che se lo mangia, Rain Winston, nei panni del prototipo dell'uomo nuovo del sistema, potremmo dire, che non si capisce bene chi lo manda, per conto di chi agisca, forse se non in prima persona, e comunque anche questo nel finale avrà un repentino cambio di, non dico di campo, perché il suo campo non si capisce qual è, comunque compirà qualcosa che forse non ci saremmo aspettati. Ma dicevo, sebbene il film alla fine consegni, come abitualmente capita a Hollywood in questo tipo di film, consegni, diciamo, il mancato nichilismo alla carta stampata, perché alla fine tu arriva alla solita, in questo caso due DVD, in altri casi erano lettere o registrazioni alla stampa perché tutto si sappia, se quindi questo è, potremmo dire, l'happy ending che Hollywood esige, viceversa il film è per molti aspetti disperato perché innanzitutto Fuori controllo riflette questi nostri anni, questo periodo non solo americano ovviamente, in cui davvero la verità non si sa da che parte stia e la giustizia, anche quella privata, è semplicemente impossibile, perché si agisce oramai in un regime di illegalità più che illegalità diffusa. Cosa rimane da dire? Rimane da dire quello che ha a sua disposizione l'uomo comune: o tradire può sacrificarsi in prima persona, cioè una giustizia divenuta impossibile, ed è un approdo per un film comunque di genere, comunque abbiamo detto che non si discosta molto dal carnovaccio della cospirazione, diremmo un approdo abbastanza condivisibile, supportato da buone prove attoriali. C'è un unico e credo però esiziale problema, che oramai la realtà, dicevamo, ha superato questo la tipo di finzione. Forse oramai a superare la nostra realtà è rimasta solo la fantascienza, anzi forse nemmeno quella, potremmo dire. Bene Fede, un abbraccio, ti ringrazio. Un abbraccio a voi, e alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno Federico, come stai? Tutto bene? Bene, con te per continuare a parlare di uscite. Abbiamo sentito Federico che ci ha parlato del Io sono l'amore, del Profeta e di Fuori controllo. Oh, benissimo, allora iniziamo a parlare anche di È complicato, che ne dici? Sì. Iniziamo a parlarne male. Insomma, vabbè, conosciamo più o meno Nancy Meyers, il tipo di commedia sofisticata, oddio, sofisticata è un parolone per lei, sofisticata che tenta di fare, insomma, sappiamo che si rivolge a un pubblico ben preciso, non giovanissimo, mediamente intellettuale, insomma, va incontro a quelli che sono i gusti della middle class americana. È complicato, praticamente rappresenta un po' la summa della sua poetica, perché si prende gli attori un po' age che erano icone degli anni 70 e 80, il protagonista del film è l'immensa Meryl Streep, gli mette di contorno caratteristi precisi come, comunque puntuali, come Alec Baldwin, come Steve Martin, insomma confeziona questo film che in realtà alla fine non ha veramente nessun conflitto interno, c'è una storia che è, in cui tutti si vogliono bene, e le varie problematiche amorose dei personaggi si risolvono sempre con un gran sorriso, insomma farà veramente contenti gli spettatori che hanno voglia di cinema addolcinato, però sinceramente come prodotto ha veramente molta poca consistenza. Non so se l'hai visto, se sei d'accordo. Sì, anche se devo dire che rispetto ai io non ho mai amato il suo cinema, devo dire che però rispetto ai precedenti questo è sta una spanna avanti. Ma sai, lei secondo me sta diventando sempre più lucida e intelligente nel tipo di confezione che vuole proporre al suo pubblico di riferimento. Dicevo, è complicato, è una specie di summa, perché effettivamente è più curato degli altri, la sceneggiatura è, ha dei riferimenti più precisi, drammaturgicamente funziona anche meglio. Sì. Il problema però è che, ti ripeto, alla fine quando è che proviamo empatia drammatica per qualcuno dei personaggi in scena? Praticamente mai, perché ogni possibile conflitto, ogni possibile sfaccettatura drammatica dei personaggi è completamente annullata, il pubblico si sente coccolato dall'inizio alla fine. E però quanto a, non voglio dire a riflettere, perché comunque poi questo non è lo scopo del film né della commedia in genere, o almeno di questo tipo di commedia. Però insomma, ecco, un po' più di problematizzazione non mi sarebbe dispiaciuta, almeno un minimo. Senti, e poi invece però ci sono delle cose notevoli che escono e che sono uscite. Certo, su tutti io direi Il Profeta, un film che bisogna assolutamente vedere. Poi è un film che ha una particolarità che purtroppo noi in Italia non riusciamo ancora a sviluppare. Ha una sceneggiatura da perfetto film carcerario, per cui da perfetto film di genere, e poi anche lo sviluppo narrativo del personaggio, alcune citazioni che Odiar mette dentro il film sono proprio da cinema di genere, però poi ha un'idea di messa in scena completamente, non voglio dire autoriale perché poi è una parola sfruttata, però assolutamente sì, personale, sì, anche sì, sì. La scansione del ritmo narrativo è molto personale, sì, rispecchia sì, molto sì. Il cinema di Odiar. Per cui ecco, questo... tra l'altro ti interrompo un attimo, sempre in genere carcerario, in ambito di genere carcerario, tra poco uscirà anche Cella 211, che insieme a questo secondo me rappresentano due titoli degni. Non l'ho ancora visto Cella 211, effettivamente sì, mi interessava parecchio. Sì. Vai, continua. No, appunto, allora no, consiglio veramente ai nostri ascoltatori di vedere questo film, che non credo avrà una distribuzione gigantesca, nonostante comunque il battage pubblicitario, tutti i premi che ha vinto, ricordiamo il Gran Premio della Giuria a Cannes, la candidatura all'Oscar, il trionfo ai César abbastanza recentemente. Insomma, andassero a vederlo perché credo veramente sia uno dei migliori film europei degli ultimi anni. Bene. Il bilancio, no? Sì. No, è un gran film. Sì. Poi consiglierei di tenersi abbastanza lontani da Fuori Controllo, perché comunque è un film che parte bene, che effettivamente è abbastanza teso, sembra un bel thriller di quelli, chiamiamoli ignoranti, di quelle produzioni abbastanza ferre che fa Hollywood. Poi però fondamentalmente si sbilancia subito, stravacca subito, perché deve stare dietro alle ansie messianiche che c'ha Mel Gibson, che deve tirare giù i suoi angeli, deve mettersi le sue preghiere, i peccati, l'espiazione, esatto, sì. Ovviamente l'espiazione nel sangue, sta ben chiaro, insomma, figuriamoci se non ci stanno tipo 60 litri di sangue e 200-300 revolverate. Questo insomma è un film di genere che non lo so, non mi ha fondamentalmente convinto. Sì, Gibson diventa un personaggio sempre più ambiguo. Sì. E poi? Tra i film che sono usciti la settimana scorsa io vorrei spezzare una lancia in favore di Alice in Wonderland. Non so come chi mi ha preceduto ne ha parlato, secondo me è un film che è stato molto sottovalutato. È vero che l'impianto di messa in scena di Burton non è più quello propositivo, non è più soprattutto quello innocente dei primi film, però i sottotesti che raccontano l'ambiguità psicologica e morale della protagonista, di Alice, donna che non sa appunto ancora qual è il suo futuro di adulto, a me hanno veramente intrigato. Non so, io non avendo letto i testi di Carroll, non so quanto fossero contenuti appunto nei libri, però secondo me in maniera sotterranea sono molto presenti e molto vibranti nel film di Burton. Bene. Meglio non fermarsi soltanto appunto all'estetica del film, ma andare un po' più in profondità, perché per me è forse la prova più matura che ha fatto tra le ultime quattro film. Forse sì. sì, ripensandoci, sì. Io poi non amo particolarmente la sua estetica gotica e oscura, però devo dire che l'ho sempre ammirato dal punto di vista della fantasia e della messa in scena. Sì, ti ripeto, ecco, non è più il dark innocente di vari Batman, di Edward, è diventato qualcosa di un po' più acido, di un po' più adulto, però film dopo film sta prendendo consapevolezza del lato oscuro, ma seriamente oscuro, seriamente ambiguo del suo cinema. Questa è una cosa interessante, e secondo me Alice lo esprime molto molto bene questo. Bene Adriano, allora ci sentiamo alla prossima, io ti ringrazio e ti abbraccio. Alla prossima, stai bene ragazzi. Ciao. Ciao.